Andiamo ad Ancona, da Marco. Ciao. Ciao Marco, storie più o meno tristi, dicevamo prima, giusto? Storie, no, non proprio triste, guardarsi, girarsi indietro, magari ogni tanto ci scappa un sorriso. Cioè, com'è andata? Senti, io facevo il caporeparto in un'azienda. Sì. Che faceva cosa, Marco? Avevamo Cosa faceva? il locale produzione sotto e sopra avevamo il magazzino. Cosa facevate, Marco? No, non lo posso dire perché sennò lo individuano. Ah, ok. Quindi dovevamo portare questa merce in magazzino, no? Sì. E fatalità ci trovavamo sempre io e questa ragazza. E l'ascensore continuava ad andare su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Sì. E questa storia è andata avanti per un paio di mesi, è andata avanti per un Sull'ascensore? po'. Sull'ascensore, sì. Ammazza, dei viaggioni su sta ascensore che facevate. Sì, andava, andava, andava. Se non che un giorno mi fa, ti devo dire una cosa. Il primo pensiero, Dio, Dio, è incinta questa qui. Com'è, no? Mi è cascato proprio il cuore, sai? Ho detto, Ma non ho capito adesso. perché te l'ha detto lei. Ah, lei ti ha detto ti No, devo dire lei mi una ha detto, cosa, ti devo dire scusami. una cosa. Io ero sposato, tra l'altro, no? E allora mi è venuto ancora al cuore e mi fa, tra 8 giorni mi sposo. E lì ti si è sollevato un peso. Ma scusami, però, e poi ti lascio andare, Marco, fammi capire, ma tutto questo sempre solo in ascensore? Solo in ascensore, Ma sì, non quanto si duravano trovava sti in viaggi in ascensore. ascensore? Com'è? Quanto duravano sti viaggi in ascensore? Ma fa conto che ne facevamo una trentina su e giù.